Porti gli spuntini durante le tue prestazioni o no? Ti nascondi gel dentro le mutande, che cosa fai? La diversificazione, concentriamoci su questo principio, perché significa, beh, quello che ci diceva la nonna: non mettiamo tutte le uova nello stesso cesto. Perché lei c'ha il ginocchio in testa, perché è uno dei massimi esperti di, è troppo innamorato del ginocchio, professor Danchile. Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ci allietano un pochino l'argomento di cui parliamo oggi, ma il tema è proprio l'SOS d'estate. Oggi a Cuore Denari torniamo con un grande classico, ma anche se il tema è ricorrente, abbiamo capito in questi anni che le raccomandazioni a quanto pare non sono mai sufficienti. Parliamo delle emergenze d'agosto. Lunedì ci siamo occupati, lo ricorderete, di quelle che possono verificarsi in condominio e di quanto, quando e come debba rendersi reperibile l'amministratore. Ma quando l'allarme riguarda solo noi e scatta nel nostro appartamento, lo sapete che tradizionalmente il frigorifero si rompe la sera del 14 agosto, oppure si ferma la lavatrice, va in tilt il condizionatore proprio nella giornata in cui il caldo è soffocante, anche se diciamo che questa sembra almeno l'unica situazione che quest'anno non dovrebbe verificarsi, oppure il motore della macchina che va in panne proprio il giorno in cui dobbiamo partire. E allora eccoci di nuovo a raccomandarvi di tenere gli occhi aperti, perché anche se le associazioni di categoria e quelle dei consumatori vigilano, i furbetti sono sempre in agguato e non vanno mai in vacanza, ed eccoli pronti a spennarci, e noi che ci lasciamo spennare pur di rimettere in funzione l'impianto elettrico o la lavasciuga. Allora 800 24 00 24 raccontateci l'ultima disavventura di questo tipo che vi è capitata in piena estate, quando tutti gli artigiani sono chiusi e non sapete dove sbattere la testa. Così avete composto il primo numero d'emergenza trovato sull'elenco e si è presentato un professionista non tanto professionale. Quanto è stato il conto? Oppure come vi organizzate per prevenire queste situazioni? E a proposito di rogne d'agosto, nella parte di cuore parleremo di mal di denti, anche se io oggi ho il mal di gola, non si sa come mai, scoppia proprio anche questa ad agosto. Una carie o una gengivite, un'otturazione saltata, una ipersensibilità possono davvero rovinare una vacanza. Allora, a partire dalle 12 con il dottor Nicola Esposito, segretario nazionale dell'ANDI, l'associazione dei dentisti, daremo consigli pratici di pronto intervento. Anche su questo argomento vi potete già cominciare a prenotare all'800 24 00 24. No, si è rotta la macchina di nuovo. Adesso 2 settimane prima che la aggiustino. Che palle! Ragazzi, se volete ci do un'occhiata io, sono un mago. Sta fermo con le mani tu, che appena provi ad aggiustare qualcosa spacchi tutto. In caso di guasto c'è chi tiene attaccato in una bacheca casalinga un bel elenco con tutti i numeri di emergenza, non solo dell'idraulico, del gommista, dell'elettricista, del meccanico di fiducia, ma anche dei loro eventuali sostituti, perché può capitare giustamente che anche loro vadano in vacanza e quindi non siano immediatamente raggiungibili. Quali sono anche i vostri consigli di buonsenso sulla base della vostra esperienza che ci potete dare, che potete condividere con noi? Noi vogliamo assolutamente sentire le vostre idee, così ne faranno buon uso anche i nostri due ospiti che salutiamo. Intanto Piero Giordano, presidente nazionale di Adiconsum, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E buone vacanze, se è già in vacanza e quindi, come dire, gliele abbiamo rovinate un po', come stiamo facendo in questo periodo con molti ospiti. Buongiorno e grazie anche a Derino Colombi, presidente della CNA di Roma, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, perché a Roma anche quest'anno si ripete la bella iniziativa AAA, Artigiani, Commercianti e Servizi, aperti ad agosto. Colombi, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a voi. Allora, intanto comincio proprio con lei, poi naturalmente cominceremo a vivacizzare la trasmissione con i contributi dei nostri ascoltatori. Sono davvero tante le imprese che hanno aderito alla vostra iniziativa, promossa per il sesto anno consecutivo, anche se non sbaglio con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Un ventaglio di attività commerciali che coprono proprio tutte le esigenze e le categorie merceologiche, quindi fabbri, idraulici, parrucchieri, panettieri, farmacie, ristoranti, fino al veterinario e anche gli odontotecnici, che di cui parleremo in parte anche nella seconda parte della trasmissione, perché pure anche il mal di denti non si sa come mai si sveglia in questo periodo. Allora Colombi, tante aziende, dicevo. Sì, tante aziende, e man mano che si seguono le edizioni sono sempre di più quelle che aderiscono. Diciamo che non è un'idea rivoluzionaria, gli artigiani, le piccole imprese, le società di servizi rimangono aperte ad agosto, la differenza è che bisogna comunicarlo. E ecco perché l'apporto del Comune di Roma, che dà attraverso il numero verde 060606 dà queste indicazioni. Dove è possibile consultare questo elenco di professionisti appunto disponibili, Colombi? Beh, intanto sul sito della CNAPMI.org, sull'applicazione della CNA di Roma. Quindi modernissimi, avete fatto anche una app, come si dice in gergo tecnologico. Da qualche anno. Sul sito del comune www.comune.roma.it, il quale però ha un numero verde 060606 a cui vengono date indicazioni in base alle categorie merceologiche. Certo. Quindi magari questa forse è, come dire, la modalità, il canale più adeguato magari per le persone anziane che non hanno tanta dimestichezza con la app, come dicevamo, un numero semplice che magari possiamo anche suggerire ai familiari di consegnare a queste persone, e quindi se a loro si rompe la lavatrice proprio in questi giorni e tutti gli altri familiari sono in vacanza, si fa subito con un telefono fisso appunto a comporre questa numerazione. Le adesioni alla campagna per gli esercizi commerciali sono ancora aperte, Presidente Colombi, quindi se altri fabbri, altri idraulici volessero dare la loro reperibilità e disponibilità possono ancora farlo? Sì, ancora per questa settimana è possibile iscriversi direttamente sul sito della CNA, oppure contattare i numeri della nostra associazione per iscrivere la propria attività con i giorni di apertura e la categoria, certo, di servizi che vengono offerti. Colombi, io mi ricordo negli anni passati quando vi abbiamo ospitato segnalando la vostra iniziativa, come il suo direttore era Lorenzo Tagliavanti, appunto, che veniva ospite nel nostro programma. Negli anni passati era Salvadanaio, ma mi ricordo come anche lui si soffermasse sulla questione anche di un'iniziativa che vuole rispondere alla crisi. Probabilmente in questo periodo anche per tanti di questi artigiani è un momento per fare affari, quegli stessi affari che durante l'anno invece sono un po' più complicati. È anche questo il motivo di tanta risposta da parte degli artigiani a questa iniziativa? Sì, noi con una battuta anche un po' male era rimanere aperti ad agosto per non chiudere a settembre. La crisi, dobbiamo dire, che sta già al suo sesto anno consecutivo che batte sulla nostra città e sulla nostra economia, è un'opportunità. Apposta le dicevo, le imprese rimangono aperte, ma qui si tratta di comunicare alla città i servizi che vengono offerti durante questo mese un po' particolare. Come vivere in questa città in maniera normale in un momento molto particolare. Faccio un esempio, io sono un gommista, ma tutte le altre cose le devo acquistare, i servizi, e quindi noi dobbiamo immaginare di essere parte di una cosa più complessa e contribuire a renderla più semplice, sia un dovere, una responsabilità. Certo. Allora, intanto volevo segnalarvi che questa mattina veramente un'ironia della sorte incredibile, ci sta andando in tilt il nostro numero verde, per cui per tutti gli ascoltatori che si stanno cimentando in questo momento nella composizione del numero per mettersi in contatto con Cuore Denari, probabilmente non riescono a sentir nulla, oppure un suono che sta andando a vuoto. In questo momento l'800240024 non sta funzionando, abbiamo bisogno di un tecnico d'emergenza in questo momento. Detto questo, però, funziona il 349-238-6666. Pertanto, gli ascoltatori che vorrebbero intervenire in diretta ma non riescono a farlo, se gentilmente possono utilizzare appunto questo canale alternativo ugualmente efficace, noi ne siamo contenti, appunto ci fanno un gran piacere. In egual modo abbiamo anche Facebook, abbiamo anche Twitter, per cui ecco, se proprio come dire, potete fare a meno del fatto di parlare direttamente con me, potete segnalarci in ogni caso tutte le situazioni appunto di emergenza nelle quali vi siete imbattuti negli ultimi anni e segnalarcele appunto al numero. Lo ribadisco, il 349-238-6666. Allora Giordano, vengo a lei. Tra l'altro, anche in queste situazioni impongono un po' le associazioni dei consumatori di non chiudere i loro sportelli. Rimanete aperti anche voi. Che reperibilità ha di Consum in questo periodo? Noi abbiamo, intanto, anche noi abbiamo diritto alle ferie, però abbiamo messo a disposizione un numero di telefono di prima assistenza che è nazionale in questo caso, che è 06 44 17 0232. Benissimo, lo segnaliamo su Facebook, grazie. E poi al momento su adiconsum.it è possibile recuperare le sedi e i numeri di telefono delle nostre sedi territoriali. Ecco, ma però a parte ci fosse reperibilità, chiamate questo numero e noi reperiamo. Benissimo. Senta, ma a parte gli artigiani, i fabbri, gli idraulici che servono in questo periodo, per quali altre emergenze in periodi come questo i consumatori si rivolgono alle associazioni come la sua, Presidente? Il problema forte che sta emergendo è questo della sanità. Spesso le famiglie purtroppo in una situazione estiva, soprattutto per le persone anziane che sono presenti in famiglia, spesso non riescono ad avere quell'assistenza da parte dei medici, perché anche loro, giustamente tra virgolette, sono in ferie, e anche i pronto soccorsi piuttosto che gli ospedali già intasati e oberati di persone durante l'anno, in questo periodo appunto, visto le ferie e vista la situazione diciamo non proprio splendida del sistema sanitario nazionale, ecco, in questo periodo molte lamentele derivano e ci arrivano appunto su questo comparto, che è molto più delicato, anche se è importante questo degli artigiani, è molto più delicato. Mm-hmm. E soprattutto ci vengono dalle persone più deboli, cioè dalle persone anziane, che spesso o vivono da sole o vivono, e soprattutto in estate vivono da soli, perché spesso le famiglie vanno via e hanno dei bisogni che spesso non riescono a soddisfare normalmente. Certo. Allora, tra l'altro, a proposito di emergenze estive, avete visto che si sta verificando in questi giorni questa situazione grottesca, se non molto, come dire, che fa molto arrabbiare i malcapitati all'aeroporto appunto Fiumicino. Di questo argomento noi ci occuperemo domani a Cuore Denari, per capire appunto se tutto questo blocco di bagagli provocato dagli addetti appunto al trasferimento delle valigie di tutti coloro che transitano nello scalo romano in questi giorni, appunto per verificare che conseguenze ci sono, quanti danni sta provocando questa vicenda, e pur essendo consapevoli del disagio in cui si trovano i lavoratori di Alitalia nella totale incertezza sul destino della loro società, la rinegoziazione dei contratti, ci sono tanti problemi, io ritengo anche che non sia stato proprio molto responsabile questo sciopero bianco che è stato messo in atto ieri. Ma noi ce ne occuperemo domani, per cui abbiamo anche in questo caso sui viaggi la classica rogna estiva. Negli anni passati abbiamo avuto Winjet, compagnie aeree low cost fallite proprio nel bel mezzo delle vacanze, insomma estate che arriva a rogna, che naturalmente porta con sé. Ritorniamo però alle situazioni appunto più ricorrenti, a parte anche se in questo periodo in realtà è molto ricorrente che anche il bagaglio non arrivi con il legittimo proprietario appunto nella meta scelta per la vacanza. Volevo ritornare per un attimo al presidente della CNA di Roma, Erino Colombi. C'è un ascoltatore che scrive, quello 060606 è evidentemente un numero solo per Roma e provincia, no? Presidente Colombi? Numero verde di Roma Capitale. Ecco, ma naturalmente, quindi non per provincia, anche se in altre località d'Italia qualcuno volesse sapere se ci sono iniziative analoghe, che cosa deve fare? Andare all'associazione, alla CNA del posto, immagino. Sì, noi possiamo dire che ci fa piacere che in diverse città italiane stanno imitando questa nostra iniziativa, che è partita, come dicevo, già da 6 anni, piano piano, e è cresciuta. Come dicevo prima, e riprendo anche il presidente Giordano della Adiconsum, noi viviamo in queste città complesse dove piccoli problemi diventano molto grandi per il singolo. Creare un'informazione, costruire questa rete di notizie può alleviare i disagi e far vivere in maniera semplice e normale una evidentemente città. Allora, quindi artigiani d'agosto, anche se sarebbe meglio dire non si fermano gli artigiani ad agosto, stiamo cercando appunto di capire quali altre città mettono in piedi iniziative di questo tipo. Io ne ho trovate alcune, non sono della CNA, sono per esempio della Confartigianato, che è l'altra grande organizzazione di categoria. Per esempio c'è Estate Sicura su tutta la Riviera Romagnola, in questo caso sono le officine di autoriparazione, quindi meccanici, gommisti ed elettrauto, che garantiscono a turno l'apertura nei giorni festivi dell'estate di una o più imprese, e peraltro anche i soccorritori stradali artigiani collaborano all'iniziativa, offrendo la possibilità all'automobilista di farsi trasportare l'autovettura in panne fino all'officina di turno. Il tutto, e questo è poi l'aspetto al quale volevo arrivare, senza apportare alcuna maggiorazione alla tariffa solitamente applicata. Presidente Colombi, allora è chiaro, io sono totalmente d'accordo, se chiamo un artigiano il giorno di Ferragosto e magari gli rovino anche la vacanza fuori porta, appunto, e la giornata fuori porta che sta trascorrendo con la famiglia e gli amici, sono anche abbastanza d'accordo nel riconoscergli un piccolo, un po' di sovrapprezzo, no, per la sua prestazione, mi sembra proprio il minimo questo. Qualche volta però, come lei sa, c'è qualcuno che ci marcia, e questo sovrapprezzo diventa una moltiplicazione letterale della tariffa chiesta per la prestazione. Allora, intanto mi dica come correttamente un artigiano deve comportarsi, poi vediamo nei casi estremi in cui si sono trovati alcuni ascoltatori che cosa si può fare. Beh, intanto mettere nome e cognome degli artigiani che danno i loro servizi e vengono identificati, con tanto il numero dei titolari e responsabili del servizio. È vero, dei comportamenti noi cerchiamo di combatterli, e credo che le associazioni dei consumatori, con i quali abbiamo già firmato alcuni protocolli qui a Roma proprio per la trasparenza dei comportamenti, questo è un terreno su cui lavorare, perché la legalità e il modo della trasparenza sono due elementi utili anche per dare fiducia a un settore che sta vivendo un momento difficile. Giordano, chiedo anche a lei un commento. Secondo lei, se dopo la prestazione che ci è stata data, la parcella che ci chiedono è del tutto spropositata, esagerata, possiamo intanto chiedere di non pagare? Secondo lei, di procrastinare il pagamento? Le associazioni dei consumatori lo suggeriscono? Sì, io l'ho fatto in una situazione allucinante. E cosa ha detto? Lei non sa chi sono io? No, non ho detto neanche chi ero, perché poi me la conservo in una seconda battuta. Quando poi lo denuncio, mi sono rifiutato, perché mia madre inopinatamente ha creduto opportuno chiamare un artigiano senza consultarmi per applicare una televisione al muro, e mi ha chiesto 600 euro per 4 colpi di trapano. Io mi sono trovato lì, ho detto io le do 50 euro, se lei ha qualcosa da dire le faccio la fotocopia della mia carta, del mio documento di identità, dopodiché io la denuncerò dove è opportuno. Se ha preso 50 euro, ha preso la porta e se n'è andato via e non si è fatto più vedere. 600 per mettere 4 vite al muro, però ha visto mia madre che ha 82 anni, quindi credeva di poter fare il furbo. Ora io non voglio criminalizzare la categoria, perché non è così, ma è evidente, sono, però i furbi purtroppo ci sono, e soprattutto ci sono quelli che non sono neanche artigiani, ma si improvvisano si improvvisano appunto artigiani, e quindi soprattutto in questi momenti di bisogno fanno i furbi al quadrato, e questo non è possibile, lo denuncio. Dopodiché lo denuncio sia alla Camera di Commercio rispetto a questo, e sia anche all'Associazione degli Artigiani. Faceva bene dire che noi abbiamo degli accordi anche in molte città del paese, in cui questi accordi garantiscono in qualche modo una maggiore trasparenza, una maggiore qualità del servizio. Certo. Colombi, quando lei sente queste situazioni, che cosa le provocano dentro? Frustrazione, abbattimento, sconcerto, scandalo, si arrabbia? Che campagne fa anche con i suoi associati per evitare che tutto questo accada? Anche se è evidente che poi con gli associati questo è un problema che non si pone, sono sicuramente delle persone in cattiva fede quelle che si comportano in questo modo, ma lei cosa si sente di dire? Beh, io lo dicevo prima, tranne i pneumatici io compro tutto il resto, e quindi vivo queste situazioni. Dicevo prima, farsi fare il preventivo, si accetta e quello è un punto di riferimento. Rivolgersi a dei professionisti che mettono la faccia, il nome, il cognome, che rimangono aperti tutto l'anno, che esistono, sono strutture organizzate. E dove ci sono degli abusi, beh, bisogna intervenire. Certo, in che modo? Le faccio un esempio. L'Unione degli impiantisti della CNA di Roma ha fatto un consorzio e il codice etico viene controllato dalla Camera di Commercio. Sì. Quindi gli utilizzatori che si avvalgono di questo consorzio possono rivolgere direttamente alla Camera di Commercio per verificare se hanno mantenuto quello che avevano promesso sul certo, loro codice. Perfetto. Allora, abbiamo ripristinato il numero verde, mi state dicendo, su per giù, insomma, quest'oggi fa le bizze, ma allora prendiamo subito Antonio d'Alessandria, perché sennò oggi non riesco. Tra l'altro queste generalmente sono trasmissioni anche molto di colore, in cui veramente gli ascoltatori ce ne raccontano di ogni, e quindi ci sarebbe piaciuto appunto poter animare un po' di più il programma con le vostre testimonianze. Ma andiamo ad Antonio d'Alessandria. Buongiorno Antonio. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Sì. È successo 15 giorni fa che mia moglie porta ad aggiustare una macchina da cucire. Ah. E il giorno dopo mi richiama il negoziante dicendo che ci volevano 150 euro per metterla a posto. Mia moglie gli ha risposto subito, dice: ne parlo un attimo con mio marito. A questa parola il negoziante fa: no, ma si riuscirebbe ad aggiustare anche per 80 euro, la facciamo andare. E mia moglie fa: no, lasci pure stare che la vengo a ritirare. Andiamo a ritirare la macchina, oltre a non averla neanche toccata perché era ancora tutta piena di polvere e piena di fili sotto, ma io l'ho aggiustata con 4 euro di carboncino. No Antonio, intanto mi fa molto sorridere il fatto che questo era un commerciante anche un po' old style, vecchio stile, perché non appena la sua signora ha detto chiamo mio marito, lui si è spaventato come se lei non fosse una degna interlocutrice per questa trattativa. Questo già mi fa un po' arrabbiare. Detto questo, allora Colombi è un artigiano, ma Giordano su questo punto lo possiamo fare intervenire, che ne pensa? Certo, noi diciamo sempre sono delle rarità, sono delle eccezioni, sono pochi furbi, in realtà statisticamente ad ognuno di noi nella vita ce n'è capitato uno. Ci sono, Giordano. Ci sono, purtroppo ci sono, e sono presenti in grande quantità. Poi ci sono grandi quantità di persone oneste, però non a caso donne e anziani vengono considerati soggetti deboli, e quindi al momento in cui si dice chiamo mio marito cambia la musica, e in qualche modo, come mia madre, appena sono entrato io in casa, a quel punto è cambiata completamente la musica, e quindi ci si ritrae rispetto ad atteggiamenti e comportamenti insostenibili. Insomma, però, allora, uno dei suggerimenti che può uscire da tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento, intanto, è, anche se siamo in emergenza, per un attimo, qua chiaramente parliamo di una macchina da cucire, non era un'emergenza, però anche se lo siamo, cerchiamo di recuperare un po' di lucidità e quantomeno intavolarla, una piccola negoziazione per stabilire patti chiari sin dall'inizio. Cuore e denari. Io chiudo qui, giù la sala cinesca, e lascio i conti a chiave nel cassetto. E questo è il mio messaggio a chi mi cerca, arrivederci e non ho detto a presto. Ma perché secondo voi statisticamente la lavatrice si rompe sempre a ridosso delle feste o di Ferragosto, così come le festività di Natale? Secondo voi esiste un timer con cui gli elettrodomestici si collegano e che suggerisce loro di fermarsi proprio nel momento di maggior bisogno della famiglia? Naturalmente stiamo scherzando, però è vero che quando queste situazioni si manifestano a Ferragosto a noi pesano e costano molto di più. Allora stanno ripartendo un po' in tutta Italia, noi stiamo parlando nello specifico dell'iniziativa di Roma, gli artigiani d'agosto, sarebbe meglio dire, come indicavamo prima, non si fermano gli artigiani ad agosto, anche causa la crisi, naturalmente approfittano di questo momento di maggiore vivacità anche nelle località di villeggiatura per rendersi disponibile e magari chiaramente incrementare un pochino il fatturato, che nel corso degli altri mesi dell'anno invece ha lasciato un po' a desiderare. Con noi questa mattina ci sono Rino Colombi, presidente della CNA di Roma, e Piero Giordano, presidente nazionale di Adi Consum. Le vostre testimonianze, adesso che il numero verde ha ripreso a funzionare, si sprecano. Andiamo a quello che ha combinato un fabbro a Roberto da Parma. Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccoci a lei. Tre settimane fa la mia signora ha chiuso la porta d'ingresso in casa lasciando dentro la chiave da lì dentro. Sì. Quindi non si riesce più a entrare, chiamo l'apriporta che trovo sulle pagine gialle, arriva, fa il lavoro, 7 minuti e mezzo, fa il lavoro e mi dice 175 euro con fattura, 115 euro senza fattura. Lei cosa avrebbe fatto? Avrei naturalmente, anche se combatto questa cosa, immagino che in molti avrebbero fatto senza fattura 110 euro. Capisco Roberto, cioè, non è che stiamo parlando di 5 euro di differenza, sono 70, quindi è una settimana di spesa e se basta. Però questa insomma è una cattiva abitudine, un mal costume che non so come faremo a poter debellare. Chiaramente se il fisco facesse quello che deve fare nel nostro paese, è chiaro che noi tutti saremmo chiamati e lo faremo volentieri a contribuire con naturalmente il pagamento delle tasse, altro che il nero. Quindi Roberto, niente, grazie per la sua testimonianza, speriamo che la chiave non rimanga più dentro. Assolutamente, infatti adesso tolgo la chiave alla moglie. Buona giornata. Grazie, grazie molte Roberto. Adesso no, che qua ci stanno sempre andando di mezzo le donne, prima con la macchina da cucire, adesso con la chiave lasciata all'interno. Erino Colombi, anche questo è un quadro che voi conoscete molto bene, no? Mi rendo conto che la pressione fiscale sugli artigiani è elevatissima, non ce la fanno più, per fortuna che quantomeno credo i piccoli artigiani non hanno il problema dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione, però ne hanno altri, appunto tassazione che li opprime letteralmente, quindi qualche volta ci provano a, come dire, incassare qualche parcella in nero, però dobbiamo combatterlo anche tutto questo. Lei che ne pensa? Allora, il caso sollevato dal signore di Parma ha reperito il numero sulle pagine gialle e quei grandi paginate di pronti interventi sono fonte di problemi. Tra l'altro, come faranno a pagarsi anche queste pubblicità, visto che sono professionisti e non professionisti, però insomma ce la fanno. Esatto. Noi pensiamo che il tessuto di una città sia fatto di imprese non sconosciute ai cittadini, quindi utilizzare il fabbro di zona, e il problema è come costruire delle relazioni. Quello che lanciavo, il messaggio che lanciavo al presidente della Diconsum, come costruire delle relazioni un po' più civili. Faccio un esempio, però, al signor di Parma: dice non mi faccio rilasciare la fattura, nemmeno posso reclamare in una fase successiva, non ne rimane traccia. Specie se si subisce un'ingiustizia. E infatti, tra l'altro un altro suggerimento che negli anni passati mi ricordo davamo molto frequentemente: noi sicuramente tutti abbiamo un idraulico di fiducia, un elettricista di fiducia, magari se loro vanno in vacanza, come è giusto che vadano, perché tutti abbiamo il diritto di riposarci, facciamoci dare da loro magari un numero di telefono, il nome di un professionista di cui loro si fidano e il quale possiamo interpellare appunto qualora si verifichino questi casi di difficoltà, di emergenza. Perché Giordano, sono comunque normali, come dire, suggerimenti di buonsenso, però quando siamo in emergenza non si sa come mai ci si cancella tutto dalla testa e non sappiamo dove andare. Una bella lista da tenere appiccicata al frigorifero e da guardare lì attentamente quando poi queste situazioni si verificano, possiamo farla tutti. E questo è fondamentale, soprattutto col passaparola. Ad esempio nel mio condominio abbiamo fatto in questo modo. C'era chi aveva avuto la disavventura che la lavatrice si guastava e aveva un artigiano di fiducia. Abbiamo messo insieme gli artigiani di fiducia di ognuno e quindi abbiamo una lista che le famiglie, non tanto il condominio generalmente, hanno e che quindi si possono rivolgere a questi artigiani. Quindi prevenire durante l'anno, perché per l'emergenza capita e poi non sai dove rivolgersi. Però attenti a quello che si diceva prima l'ascoltatore: non è vero che non posso in qualche modo, dopo che mi si propone il pagamento senza fattura, non posso intervenire. Noi consigliamo di rivolgersi a un'associazione o non rivolgersi e fare direttamente una denuncia all'Agenzia delle Entrate rispetto al, quindi farsi dare nome e cognome dell'artigiano e sapere dov'è, e denunciare l'artigiano dandogli i 110 euro e chiedendo per iscritto la fattura sui 110 euro. E questo diventa fondamentale. No, tra l'altro questo comunque è tutto, come dire, un quadro postumo alla prestazione. Io direi che impegniamoci a chiedere un preventivo. Guardi, mi sta capitando questa situazione, a meno che non ci sia l'allagamento di tutto l'appartamento e anche del piano di sotto, quando proprio veramente le emergenze non ci rendono lucidi. Ma per una chiave rimasta all'interno della porta, adesso se aspettiamo 5 minuti in più ad entrare, a meno che una pentola non sia sul fornello, però voglio dire, ecco, qualche volta proprio il tema della richiesta del preventivo è qualcosa che ci è ostile dentro. Non ce la facciamo a chiederlo, Giordano, ma che cosa si crea nei consumatori di resistenza mentale che ci impedisce? Che cosa dice lei? Si va in tilt, secondo me. Ad esempio, per la chiave basta chiamare i pompieri che con una lastra per i raggi X te la aprono in 3 minuti. Mm. A me purtroppo anche questo è successo. Ah, vabbè. Perché ognuna è... Ma allora lei è stato nominato presidente di Consum per la sua esperienza, giustamente, no? Appunto. Ecco. No, mia moglie ha dimenticato. E tre... Ha e tre, è sempre le mogli che ci sono, no, di mezzo. No, portavamo la spesa in casa, c'era la finestra aperta, si è chiusa, c'era vento, si è chiusa la porta di casa e devo dire, con mia grande meraviglia, chiamati i pompieri, non l'artigiano sulle pagine gialle, con una lastra per i raggi X, hanno aperto molto simpaticamente la porta in 3 minuti. Questo attenti anche ai ladri, perché questo succede ad agosto, ci si dimentica di passare le passate appunto della serratura e facilmente si aprono le porte. Ma secondo lei vengono volentieri i pompieri per risolvere un'emergenza di questo tipo? Non è che si indispettiscono un po' e dicono noi abbiamo qualcosa di più importante a cui pensare, figuriamoci. Beh, se ci interessa della sua porta chiami un fabbro. No, ma volentieri, certamente a me costa 30 euro perché perché le spese vengono volentieri, perché anche i pompieri cominciano a ragionare in termini di servizio alla cittadinanza. Ecco, se si facesse rete tra di noi consumatori e in qualche modo si riuscisse ad avere dei punti di riferimento stabili rispetto al servizio, penso sempre agli anziani, sarò noioso, ma io penso sempre agli anziani, perché in questo periodo sono veramente quelli che sono in qualche modo i più tartassati, è possibile creare reti di solidarietà tra le persone, anche se in questo momento sembra non sia possibile, io sono convinto che è possibile, ed è possibile anche con alcune istituzioni, io solo li considero appunto delle istituzioni, loro molto simpaticamente ridevano pure mentre ci aprivano questa benedetta porta, però molto simpaticamente si sono prestati. Certo, se c'è un incendio in corso ti dicono aspetti 2 ore e ti metti dietro la porta. Mi scusi, ma abbiamo altro da fare. Quindi insomma, ci piace questa immagine dei vigili del fuoco che non risolvono solo l'emergenza del gattino che rimane arrampicato sull'albero, che è un po' nell'immaginario cinematografico quella circostanza alla quale associamo un po' più frequentemente d'emergenza i pompieri, a prescindere dallo spegnimento degli incendi evidentemente, ma insomma anche se avete la porta bloccata possiamo anche chiamarli. Insomma, male che ci vada, ci dicono di no, e allora seguiremo il secondo step, che è quello chiaramente di chiamare un fabbro professionista. Massimiliano da Verona, buongiorno. 800 24 00 24, il numero verde finalmente a vostra disposizione, ci dica. Buongiorno, niente, sentivo parlare prima di situazioni un po' così fastidiose dove qualche artigiano magari non si era proprio comportato, o presunto artigiano. Esatto, ecco, forse è meglio precisare, esatto. No, non si era comportato correttamente. Ecco, volevo solo riportare una testimonianza. Online esistono interessanti strumenti, siti o anche app che consentono di lavorare direttamente con la reputazione delle aziende in generale. Certo. Stiamo magari parlando di un settore più B2C, quindi più rivolto ai consumatori, ma in generale anche altre aziende, quindi in un settore, chiamiamolo così, B2B, quindi rivolto più agli affari, alcune aziende hanno necessità di interventi appunto così, in momenti un po' particolari, quali magari sono Ferragosto, cose del genere, strumenti online che consentano, a fronte di una ragione sociale, un cognome, una partita IVA, di verificare quantomeno una presunta reputazione di questo artigiano o azienda artigiana con la quale si va ad interagire magari in situazioni difficili o particolari. Massimiliano, ma lei è un professionista? Come mai è così informato su questa modalità di andare a caccia di artigiani professionali? Ma innanzitutto collaboro con un'associazione artigianale qui della mia regione, della mia zona, da tanti anni, e poi comunque mi occupo di web e di informatica in generale, perché insomma sono particolarmente attento a questi modelli di business basati su rete e a strumenti basati su rete, chiaramente. La web reputation, ha fatto bene Massimiliano a segnalarcelo, naturalmente tutto questo meccanismo di controllo lo dobbiamo mettere in campo prima di andare in vacanza, quindi ricordiamoci, oltre che a immaginare i vestiti che ci dobbiamo portare via o che altro, se si dovesse verificare l'emergenza anche casalinga proprio a ridosso della vacanza, magari ricordiamoci anche di andare a controllare su web, oltre alla lista degli articoli professionali che fanno al caso nostro, anche se hanno una buona reputazione. Tra l'altro alcuni ascoltatori al numero verde, visto che adesso ha ripreso a funzionare, ci stanno dicendo: ma insomma avete dato solo un numero di Roma, Roma non è l'Italia. Noi oggi parliamo di questa iniziativa. Quello che possiamo suggerirvi è di andare presso gli sportelli di cui l'Italia è disseminata, della CNA o della Confartigianato, delle principali associazioni di categoria. Se non c'è nel vostro paese, c'è nella vostra provincia. Tirar sul telefono e fare una chiamata a loro non costa nulla. Se anche non hanno delle iniziative straordinarie estive, tipo artigiani d'agosto, estate sicura o quant'altro, hanno certamente una lista di professionisti da segnalarvi. Non lo so, Colombi, ho dato un suggerimento di un senso molto banale, non so se ho detto le cose giuste. No, ha detto le cose molto giuste. Apprezzo lo spunto che ha dato Massimiliano da Verona, perché è proprio vero, bisogna dare una premialità ai buoni comportamenti e costruirli nel tempo. È anche vero che il mondo delle piccole imprese deve approcciare questo problema della rete, della web reputation, come diceva lei, affacciandosi da protagonista, nel senso, noi siamo parte di questo tessuto economico, facciamo parte anche di questo tessuto sociale, questa rete va costruita. Come? Beh, insieme agli altri. Certo. Adesso torniamo con altre situazioni, permettetemi però di salutare con grande affetto il Vigile del Fuoco di Siena, che ci scrive al 349-238-6666, perché anche se in molti contestano il fatto e dicono ma insomma non si possono disturbare i pompieri per queste scemate, come dice Roberto, invece il nostro amico Marco, Vigile del Fuoco a Siena, ci dice: le aperture delle porte sono una routine che svolgiamo normalmente e volentieri. Marco, grazie, buon lavoro, a tra poco. Cuore e denari. È qui il dentista? Aiuto! Signor dentista! Aiuto! Signor dentista! Ascolti! Lo sente il mio dolore! Signor dentista, avanti! Lei sa cosa deve fare! E allora, i nostri amici dentisti hanno anche la loro colonna sonora. Tra gli imprevisti che possono rovinarci le vacanze, il mal di denti è certamente quello più fastidioso, che può comprometterle completamente, perché sappiamo benissimo che davvero chi lo ha avuto lo sa, è qualcosa di tragico, quello molto, molto importante naturalmente. Poi ci sono doloretti e doloretti, però se poi consideriamo che in vacanza si tende ad eccedere un po' anche in cibi, bevande, dolci e gelati in particolare, ecco che l'imprevisto e il mal di denti può essere dietro l'angolo, e un problema odontoiatrico può trasformare un piacevole soggiorno, momento di riposo, in un vero e proprio incubo. È il tema di cui parleremo tra poco. Anche su questo, se volete intervenire, avete il numero verde a vostra disposizione, l'800 24 00 24, per sapere che cosa fare se il mal di denti arriva ad agosto. Ci collegheremo con il dottor Nicola Esposito, segretario nazionale dell'ANDI. Domenica d'agosto, che caldo fa, la spiaggia un giro arrosto non servirà, bere una bibita, se in fondo all'anima sogno l'oceano splash. E allora il tubo che si rompe anche e soprattutto nella domenica d'agosto, il guasto elettrico o solo dimenticare, sono molti casi che ci sono stati raccontati nel corso della nostra trasmissione Le chiavi di casa uscendo. In estate uno dei problemi peggiori è proprio quello di trovare un professionista onesto nel momento in cui serve, dall'idraulico al fabbro, dall'elettricista all'esperto anche di tapparelle, dagli addetti agli impianti a gas a quelli di climatizzazione, disponibili a prezzi non troppo alti per piccole e medie riparazioni. Quali sono i vostri suggerimenti, vi siete scatenati non appena abbiamo ripristinato il nostro numero verde. E soprattutto non dimentichiamoci, su questo punto si è soffermato con grande attenzione il nostro presidente di Adiconsum Piero Giordano, non ci dimentichiamo che sono soprattutto i soggetti più deboli le vittime preferite da queste persone in cattiva fede, quindi gli anziani e le persone che non possono andare in vacanza perché appunto non possono farlo in questo periodo. Persone in cattiva fede che giustamente il presidente della CNA di Roma diceva sono delle eccezioni, però a quanto pare con queste eccezioni ognuno di noi almeno una volta nella vita ci siamo imbattuti. Allora come le gestiamo queste faccende? 800 24 00 24, il tema più ricorrente naturalmente è quello di chiedere una parcella del tutto spropositata rispetto alla prestazione che appunto questi artigiani devono garantirci. È ovvio, io non sto neanche a dire che ci siano che la maggior parte delle persone che delle quali ci avvaliamo sono persone oneste e che non fanno tutto questo. Io però stamattina a Cuore Denai mi sto occupando dei casi estremi e dobbiamo dare delle regole appunto ai nostri consumatori per capire come comportarsi davanti a queste situazioni. Tra l'altro, Colombi, come vi siete attrezzati voi con la questione del pagamento con il POS? Perché c'è questa norma che ha reso obbligatorio anche i professionisti appartenenti alla vostra categoria di dotarsi di questa macchinetta per consentire ai consumatori di pagare o con la carta di credito o con il bancomat, anche se sappiamo che questa norma non aveva delle sanzioni, non aveva previsto delle sanzioni per chi non si adeguasse. Ma i suoi artigiani si stanno adeguando, l'hanno fatto volentieri, quali criticità? Allora, diciamo che il POS è uno strumento ormai quasi indispensabile per le attività, gli esercizi commerciali come strumento di pagamento. La nostra associazione sta cercando di costruire un rapporto con una società proprio per favorire costi minori, certo, per la gestione di questo strumento, che ricordiamo è uno strumento di pagamento. In questi ultimi mesi c'è stata una gran confusione tra uno strumento per la leva fiscale, quindi per combattere l'evasione, diciamo. Esatto, e lo strumento di pagamento. Io penso che diffondere l'utilizzo del POS a costi sempre più accessibili, sia per l'impresa ma anche per l'utilizzatore, penso al bancomat per esempio, certo, quindi una riduzione di commissioni e quant'altro. Le carte di debito, le carte di credito possono anche avere le commissioni perché uno lo sceglie liberamente, ma il bancomat sono disponibilità che lei ha sul conto e non credo che sia giusto avere commissioni così alte. Diffondere questo strumento aiuta anche i problemi di sicurezza. Gli artigiani che si portano tanti contatti indietro, è vero, no? Esatto, anche per loro. Esatto, e noi stiamo cercando proprio di fare una convenzione con una struttura specializzata proprio per un apparecchio Bluetooth con lo smartphone, tablet, diciamo tutti gli strumenti più innovativi, proprio certo, per liberarci da quello che è la burocrazia, il filo che ti lega. Bravo presidente, ci fa piacere, così almeno anche gli artigiani si adeguano più volentieri e oltre alla cassetta degli attrezzi non devono portarsi anche questo strumento che è fastidioso, un po' ingombrante naturalmente, quindi gli si garantisca quantomeno qualcosa di un po' più fruibile, più agevole. Intanto fra un po' la nostra Laura Vanossi, che sta controllando gli ascoltatori, ci metterà in contatto con un simpatico idraulico di Pistoia che vorrebbe intervenire. Nel frattempo vado a Concetta da Torino, che qua mi presenta un problema che io non so come possiamo affrontare. Concetta, buongiorno, adesso vedremo che fare. Che succede a casa sua? Buongiorno signora Deborah. Eccoci. Senta, io le pongo un problema che non è risolvibile. Scusi. È un po' di giorni che trovavamo delle vespe, io non so se erano vespe o api nel bagno, insetti, o morte o tramortite. Le prime volte non facevamo caso, può darsi che ne sia andata qualcuno, però la cosa si ripeteva. Allora chiamati i vigili del fuoco, gentilissimi, e mi hanno detto che bisognava avvisare più subito l'amministratore di condominio. Lunedì doveva chiamare, Concetta. Lunedì, lunedì proprio ci siamo occupati di tutte quelle funzioni di garanzia che l'amministratore deve garantire in questo periodo, perché anche lui si merita un po' di riposo, naturalmente, cosa deve fare se se ne va. E quindi lo ha chiamato lei il suo? Sì, ma no, io l'ho chiamata quando era in trasmissione, però non c'era più spazio. No, ma lei per i suoi insetti nel cassetto ha chiamato l'amministratore? Sì, ho chiamato chiamato l'amministratore dopo l'esistenza perché dice che non era parte in comune, che era parte mia e all'interno, per cui dovevo provvedere personalmente. Però io ho detto che il vigile del fuoco mi aveva detto di chiamare l'amministratore e poi di riferire a loro cosa era successo. Vabbè, nel pomeriggio è venuto. Ho preso di questi animaletti, l'ho messo in un barattolino, è venuto con cui il signore della istruzione, però non ha saputo distinguere se erano vespe o api. Per cui ha detto, ma signora, lei mettasi in giro di qualcosa, perché se sono api non possiamo venire perché è specie protetta, e veda come va. Questa non è una risposta, giusto? No, infatti. Allora quindi... ho telefonato, la faccio lunga, e niente, allora sono andata dal mio apicoltore dove solitamente prendo il miele sempre con questo barattolino e mi dice che sono vespe, non sono api. Lui mi ha detto ci sarà un nido piccolo, un bozzo piccolo nel cassonetto, per cui dopo 2 o 3 mesi la cosa si può esaurire da sola, altrimenti chiamare qualcuno da mettere il veleno, ma tutta una cosa così confusa. No, come per dire, esatto, un piccolo problema, perché adesso non è che aveva dentro un leone, no? Nel cassetto, ma però insomma proprio non trovare neanche l'interlocutore che ti aiuti a risolvere questo problema. E la nostra ascoltatrice, insomma, torinese, noi le siamo naturalmente molto vicino, ha avuto anche la intuizione di andare dal suo apicoltore, però Giordano, qua ribadiamo figure deboli. No, mi ha stupito un po', se devo dire, la risposta dell'amministratore di condominio, che giustamente dice non è che il cassetto della camera da letto della signora sia una parte comune, ma santo cielo, un po' di apertura di orizzonti mentali, ma che diavolo, cioè, appunto. Non lo so. Cioè, è il gioco del cerino, si passa nel cerino uno esatto. Questa cosa non va. Vabbè. No, il condominio viene pure pagato, quindi ma infatti, una gentilezza la può fare. Infatti, diciamo. Colombi, lei che professionista avrebbe suggerito a questa signora? Ah, guardi, io avrei fatto come ha fatto la signora che ha chiamato i vigili del fuoco, gentilissimi, probabilmente avrei chiamato un veterinario, guardi, perché francamente non immaginavo che la differenza tra le api e le vespe, anche io avrei difficoltà a coglierla, però avrei chiamato un vicino se mi dava una mano. Esatto, quindi vabbè, insomma speriamo che in questo paio di mesi, come l'apicoltore ha detto, possa risolvere la situazione a questa signora. Ma la questione è che qua adesso, a parte la lavatrice, la macchina in panne, la chiave che rimane all'interno della porta, quindi nella serratura dalla parte opposta quando rientriamo in casa, e tante altre cose, insomma c'è un'altra bella emergenza che si può verificare durante l'anno così come in vacanza, quando invece questi casi non si sa com'è, si moltiplicano proprio come il pane e i pesci. E se parliamo del mal di denti, allora come risolvere queste emergenze quando ci scoppia proprio il giorno di Ferragosto, quando il dolore diventa talmente insopportabile che ci fa mancare la lucidità? Perché il mal di denti, dottor Esposito, ce la fa proprio perdere quando è forte. Certo, buongiorno a tutti. Buongiorno anche a lei, naturalmente. Il mal di denti è forte non solo in vacanza, ovviamente, è forte quando arriva il sorriso e noi possiamo fare in modo tale che non arrivi, quando si è pronti per andare in vacanza. Esatto, allora adesso con lei daremo tutti i suggerimenti del caso per risolvere anche questa emergenza in vacanza, magari facciamo anche una lista di medicinali da portare con noi, di antidolorifici, antinfiammatori, insomma tutto quello che è necessario portare, se anche magari abbiamo una certa predisposizione al mal di denti frequenti, se sappiamo già che abbiamo un problemino in bocca che ancora non abbiamo avuto il tempo di risolvere, che magari si risveglierà proprio in vacanza, il dottor Esposito è con noi e ci darà tutti i suggerimenti appunto del caso. Intanto grazie, buona estate e buon lavoro a Derino Colombi, ma lei la sua attività la tiene aperta in questi giorni, Colombi? Sì, ci sono i turni dei ragazzi, anche io usufruirò di una settimana e al minimo, ma siamo sempre aperti proprio benissimo. Per un servizio alla nostra collettività. Daniele, velocissimo, idraulico di Pistoia, che voleva dire che lui è aperto? Niente, io faccio pronto intervento ormai dal 93, dal 1° maggio del 93 e... quando la gente mi chiama per il pronto intervento io do il mio listino prezzi. Bravo, si chiama la Chiappagoccia, se volete fruirne io devo andare al giornale radio. Grazie, a dopo. Cuore e denari. Yeah. ci sarà. Voglia sorridere quando ti fanno male i denti. La lingua davvero batte dove il dente duole. Un proverbio azzeccatissimo per noi, perché quando il mal di denti colpisce son dolori, e che dolori. Chi lo ha provato almeno una volta nella vita lo ricorda bene, di certo non vorrebbe ripetere l'esperienza. Figuriamoci poi se tutto questo ci capita in vacanza. Allora, in questa seconda parte del nostro programma parliamo proprio di lui, del mal di denti. Incrociamo le dita, ci auguriamo che non tocchi a noi, ma nel caso niente panico, ci sono delle iniziative che ci danno una mano, un po' come gli artigiani d'agosto di cui abbiamo parlato all'inizio del programma. Torna per il settimo anno consecutivo Sorrisi d'agosto, l'iniziativa di ANDI, l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, che permette ai cittadini di trovare un dentista aperto anche nel mese di agosto. Trovare il dentista ANDI aperto più vicino è facile, c'è anche un numero verde, oggi ne abbiamo dati tanti, questo è esclusivamente per chi ha il mal di denti. Ve lo dico una volta, poi magari lo ripeteremo nel corso del programma. 800 911 202, e non è il numero verde che invece vi serve per venire in diretta a Cuore Denari, quello è l'800 24 00 24. Raccontateci del vostro mal di denti estivo, come avete gestito la situazione. Anche in questo caso siete incappati in un professionista che non ha molto soddisfatto le vostre aspettative. Con noi quest'oggi, lo abbiamo già salutato, il dottor Nicola Esposito, segretario nazionale di ANDI. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Esatto, speriamo che siano tutti bene, naturalmente, che non abbiano il mal di denti. Allora, ci faccia un po' una fotografia. Siamo ancora all'inizio del mese di agosto. Negli anni passati com'è andata questa vostra iniziativa? Come ha detto lei in apertura, siamo al settimo edizione del Sorrisi d'agosto. L'associazione già da 7 anni ha deciso di fare in modo tale di dare la possibilità a tutti i pazienti che sfortunatamente, aggiungo, hanno mal di denti durante le loro vacanze, di poter trovare un dentista presente anche nella zona di vacanza, basta telefonando al numero verde. Negli anni hanno aderito migliaia di dentisti, quest'anno circa 5.500 dentisti soci ANDI che si sono resi disponibili per poter dare la loro disponibilità nel momento in cui hanno il paziente che sfortunatamente incappa nel fatidico mal di denti. Quanti suoi colleghi aderiscono a questa campagna, segretario? Come dicevo, quest'anno sono 5.500 sparsi tutto il territorio italiano. Basta telefonare al numero verde oppure collegarsi al sito obiettivosorriso.it, perché certo, si trova anche l'elenco dei dentisti con gli orari di apertura e i giorni di apertura. Sono tanti 5.500. Tra l'altro, segretario, le faccio la stessa domanda che ho fatto ai professionisti intervenuti nella prima parte del programma. Questa iniziativa estiva è anche un modo un po', lei lo sa, forse anche con la sua associazione abbiamo commentato con Nicoletta Carbone questa tendenza, che proprio per affrontare altre emergenze economiche della famiglia, in molti si curano molto meno i denti e rinviano sempre di più la visita dal dentista, a meno che non sia naturalmente assolutamente indispensabile andare perché c'è il dolore, ma diciamo che la prevenzione è un pochino lasciata indietro tra le priorità familiari. Il mese di agosto serve anche un po' alla vostra categoria per recuperare un po' del lavoro che non è stato fatto durante l'anno? Ma infatti i 5.500 sono i dentisti che si sono resi disponibili comunicando ad ANDI il periodo di apertura anche in agosto, ma sono tanti i dentisti che ovviamente sono aperti normalmente anche nel mese di agosto. Immagini solo già quei dentisti che hanno i loro studi nelle località di turistiche piuttosto che nelle città di provincia. È ovvio che c'è anche l'aspetto della crisi, perché non c'è dubbio che il dentista in agosto ha pazienti, continua ad avere pazienti rispetto a prima, questi pazienti che ovviamente vanno sempre meno in vacanza hanno anche l'occasione per beneficiare del periodo di agosto, certo, per recarsi dal dentista. E allora andiamo proprio un po' al problema invece del mal di denti, che come dicevamo, quando arriva ma come si dice, uomo avvisato mezzo salvato. Quindi dottore, con lei cerchiamo un po' di capire cosa fare. Se il mal di denti ha deciso di fare la sua comparsa improvvisa proprio con noi, ci ha scelto come ospite privilegiato, in caso di emergenza, intanto la prima cosa da fare, ammettendo di non avere immediatamente la lucidità di magari fare il vostro numero numero verde, di interpellare un dentista vicino a noi. Ricorriamo alla guardia medica. Lei che cosa ci suggerisce intanto? Ma non c'è dubbio che dipende dal tipo di dolore. Se è un dolore fisso, continuo, pulsante, vuol dire che c'è una probabile infezione in corso, un'eventuale infiammazione del nervo oppure una carie abbastanza profonda. E in quel caso non c'è dubbio che il consulto di un medico, anche di un medico della guardia medica, permette al paziente di comprendere se deve fare o meno ricorso ai farmaci. Uh-huh. Perché l'autoprescrizione va bene, ma attenzione sempre ai tipi di farmaci da prendere. Certo, magari qualcuno conosce già il problema che si sta portando in vacanza con sé la sua bocca e magari sa già cosa fare qualora il dolore si risvegliasse, ma per qualcuno può essere anche proprio un fulmine a ciel sereno, no dottore? Quindi in questo caso, secondo lei, però, magari due o tre medicinali da portare con sé per evitare, come dire, proprio che il dolore ci faccia perdere la testa? Le due cose fondamentali, sì. Certo, ci sono vari tipi di medicinali, ci sono gli antinfiammatori e gli analgesici, che sono dei farmaci che vanno bene per qualsiasi tipo di dolore e che danno la possibilità nell'immediato di alleviare il dolore e il fastidio che il paziente accusa e approfittare poi alla prima occasione di recarsi da un dentista. Se salta l'otturazione, andiamo alla guardia medico, andiamo subito al vostro numero verde. Ma guardi, la guardia medica, tranne se non è una guardia medica odontoiatrica, perché certo, in varie città d'Italia ci sono anche i pronto soccorso odontoiatrici. Ah. Sì, sono sia di negli ospedaliero, quindi pubblici, ma ci sono anche tantissime sezioni ANDI che hanno creato la guardia odontoiatrica e festiva. Quindi anche in quei casi, nel momento in cui ci si trova, basta andare sempre sul sito di ANDI e si riesce a individuare la guardia odontoiatrica dei soci ANDI. Questo pronto soccorso odontoiatrico, dottor Esposito, è garantito nelle principali città, nelle città capoluogo o magari anche in piccoli centri, secondo lei? Assolutamente anche nei piccoli centri, perché i soci ANDI sono le grandi città, sono anche nella provincia, ci sono. Mannaggia, stiamo. Allora, aspetti, dottor Esposito, perché abbiamo avuto un piccolo problema di collegamento. Adesso non so se Laura prova a ripristinarlo. Adesso stiamo verificando la qualità del collegamento telefonico col dottor Esposito e stiamo parlando di un'altra emergenza estiva, quella che ha a che fare con la salute. Io non so, a voi, a me non è mai capitato d'agosto, ma qualche volta in dicembre che arrivi il mal di denti. Allora, eccoci qua, dottor Esposito. Adesso la sentiamo meglio. No, le stavo chiedendo, non avevamo sentito bene la risposta, se questi pronto soccorso odontoiatrici sono anche nei piccoli centri, vale la pena magari andare a farsi un giro per verificarlo? Sono anche nei piccoli centri, certo, perché il socio ANDI non è solo nella città, nella grande città, sono anche in provincia, pertanto c'è un elenco di dentisti sparsi sia nelle grandi città che nei piccoli centri della provincia. Certo, quindi diciamo che è bene rivolgersi al dentista a disposizione sul territorio se salta l'otturazione, se salta o un ponte o una capsula, giusto dottore? Assolutamente, nel caso in cui salta l'otturazione è semplicissimo, ovviamente dipende anche dalla profondità dell'otturazione, perché il paziente incomincerà ad accusare un po' di fastidio, di sensibilità. A quel punto prendere un batuffolino di cotone e cercare di riempire il buchino col batuffolino di cotone e arrivare il prima possibile ovviamente da un dentista per fare in modo tale da ripristinare l'otturazione. Se salta un ponte oppure una corona c'è un espediente molto semplice, della crema adesiva per protesi, oppure esistono in farmacia prodotti che permettono di cementare provvisoriamente la protesi. Certo, e magari evitare in questo frangente, in attesa di trovare il nostro medico di riferimento, di mangiare delle cose che possano peggiorare la situazione. Certo, perché ovviamente il dente nel momento in cui è un po' più scoperto, ovviamente dalla otturazione, in quel caso sostanze zuccherine che troppo fredde o troppo calde potrebbero nuocere sul dente stesso. Certo. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione per le domande su questo argomento. Abbiamo a disposizione il dottor Nicola Esposito, segretario nazionale di ANDI, dell'ANDI, l'Associazione Nazionale dei Dentisti Italiani. Ovviamente ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Una nostra ascoltatrice molto affezionata, Tina, ci scrive: un dolore improvviso e violento ad un dente mi viene proprio sul sull'aereo che mi porta in vacanza, vacanza in parte rovinata. È possibile che la pressione dell'aereo, dottor Esposito, possa enfatizzare qualche problema in bocca? Sì, a volte può capitare questo, perché ovviamente la pressione, la pressurizzazione o meglio dell'aereo può far nascere dolori che ovviamente sulla superficie terrestre non abbiamo. Questo però è temporaneo, perché nel momento in cui si ritorna a terra il dolore scompare. In quel caso però è necessità sempre di farsi visitare, perché probabilmente c'è qualche problema, certo, all'autoreazione piuttosto che al dente stesso. Tra l'altro io l'ho chiamata impropriamente pressione, ma è la pressurizzazione il termine più corretto, certo, appunto. Senta, ha un'altra disavventura della nostra bocca che si può presentare in vacanza o no, è quella dell'ascesso. Se si verifica quando siamo in vacanza e non abbiamo subito appunto un medico di riferimento, questo caso come lo possiamo risolvere e tamponare momentaneamente? L'ascesso, come giustamente lei dice, provoca gonfiore, non, in genere non provoca dolore, e vuol dire che c'è un infarto esatto, o c'è del pus che si è raccolto sotto gengiva e ha gonfiato i tessuti. Se c'è un'infezione vuol dire che bisogna fare ricorso a dei farmaci antibiotici, però qui ci tengo sempre a sottolineare che non va bene sempre la prescrizione. È ovvio che un medico, in questo caso un medico di guardia o piuttosto che il dentista, se ne ha la possibilità di incontrarne uno, di farti visitare, ne necessità al fine di poter fare la prescrizione adatta per il, certo, tipo di infezione che c'è. Dottor Esposito, tra l'altro, a proposito di ascesso, in quali casi lo dobbiamo lasciare riassorbire, in quali casi è bene che intervenga magari un medico per romperlo e quindi, come dire, far qualcosa di un po' più drastico per debellarlo, per cancellarlo? Guardi, l'ascesso, come le dicevo, è un'infezione che provoca tumefazione e quindi c'è della raccolta di materiale purulento all'interno del gonfiore stesso. Se questo è appena nato ed è ancora molle, cioè palpandolo si riesce ancora a fare in modo tale di far uscire il pus all'interno, vuol dire che è in una fase ancora tecnicamente colliquativa, quindi è ancora liquido all'interno, e quindi il farmaco è più che sufficiente, non c'è bisogno di intervenire. Negli ascessi un po' più che durano da più tempo va assolutamente temporeggiato con i farmaci ovviamente che riescono a fare in modo tale che l'infezione degredisca, e comunque, ripeto, nulla che può essere fatto da soli necessita sempre dell'intervento del medico. All'inizio non dovevo andare all'università, dovevo diventare igienista dentale come mia sorella Beverly, e io ho profondo rispetto per denti e gengive, in particolare per le gengive. Tutta la mia famiglia lavora nei denti. Apra? Oh. Allora, diamo una controllata ai danni. Oh cielo, non vedo premolari del genere da quando... Willy? Ciao papà. Tutti questi anni, senza filo interdentale. Dottor Esposito, peraltro all'inizio della trasmissione, quando ho preannunciato che lei sarebbe arrivato per discutere dei temi dei quali stiamo discutendo, ho anche detto, riferendomi all'iniziativa della Confartigianato, che loro hanno chiesto l'adesione alla loro campagna Artigiani Aperti d'Agosto anche ad odontotecnici, e qualche ascoltatore si è subito offeso e ha fatto immediatamente questa associazione, che io non ho fatto, glielo assicuro, dicendo: io sono un medico odontoiatra, mi fa piacere scoprire che per lei il mal di denti si può curare anche rivolgendosi ad un odontotecnico. Certo che però se in estate ci viene questo mal di denti improvviso e non abbiamo nessun dentista nel raggio d'azione, diciamo, di 10 chilometri, se anche troviamo un odontotecnico, forse sempre meglio di un, non lo so, di un ginecologo per farci dare un'occhiata alla bocca. Lei che dice, proprio in emergenza, anche se so che le vostre professionalità sono molto distanti, sono molto differenti, che dice? Guardi, non potrei dirle che va bene, per il semplice fatto che l'odontotecnico per legge non può visitare un paziente. Perfetto. Quindi di conseguenza creerebbe un'illegalità. E in quali casi allora interviene lui? L'odontotecnico lavora solo e esclusivamente su indicazione dell'odontoiatra. Mm-hmm. Pertanto l'odontotecnico è un artigiano e quindi lavora nel suo laboratorio su indicazioni dell'odontoiatra per il confezionamento dei dispositivi di protezione individuale, in questo caso sono le protesi. Mm-hmm. Senta, andiamo un po' invece ad un altro problema legato alla bocca, estivo o no, le gengive quando sono particolarmente sensibili. C'è qualche aspetto magari dell'alimentazione, visto che ci alleggeriamo un po' più mentalmente in vacanza, che può enfatizzare questo problema e come lo risolviamo appunto durante la vacanza? Se i denti sono sensibili vuol dire che le mie gengive sono infiammate e queste hanno scoperto parte della radice del mio dente. Questo vuol dire che c'è probabilmente la necessità di fare dell'igiene alla mia bocca piuttosto che utilizzare dei prodotti che temporaneamente potranno alleviare questo fastidio. Esistono delle paste dentifrice, ovviamente per denti sensibili, che massaggiando le gengive vengono distribuite sulla superficie dei miei denti e perlomeno temporaneamente riuscirò a poter mangiarmi anche un gelato, perché probabilmente quello non riuscirò a masticarlo, certo, perché mi darà molto freddo. A proposito del mangiare e delle conseguenze, Lucio al 349-238-6666 ci scrive: se esagero con la banana e con il melone mi viene il dolore ad un dente, secondo perché proprio questo dente ha questa particolare sensibilità a questi due frutti? Questo è probabilmente dovuto a due motivi: o alla sensibilità al freddo, perché il melone presumo che lo mangi freddo e non caldo, piuttosto che la sostanza zuccherina contenuta nella banana. In realtà zucchero e freddo, o se nuociono sul dente, vuol dire che c'è una carie piuttosto che un'otturazione che si è infiltrata, quindi comunque c'è qualcosa che sta penetrando all'interno della superficie dentale e quindi sta provocando un dolore, e questo è sinonimo di qualcosa che non va e quindi la visita al dentista diventa, certo, necessaria. Andiamo ai bambini, dottor Esposito, perché purtroppo anche a loro può capitare qualcosa in vacanza, e oltre al fatto che magari tollerano un po' meno qualche dolore improvviso, poverini, chiaramente poi a cascata il problema si riversa su tutta la famiglia. Intanto ecco, a che cosa bisogna fare particolare attenzione? È chiaro che soprattutto un po' di attenzione devono farla soprattutto quelle mamme e quei papà dei bambini che hanno l'apparecchio ai denti. Guardi, noi siamo abituati che durante le vacanze cediamo nell'alimentazione, è spontaneo fare delle colazioni ricche di tanti zuccheri, come è giusto che sia, piuttosto che durante la giornata alimentarci più volte. Ora, i bambini è sempre difficile dire di no se vogliono il gelatino piuttosto che il panino. A quel punto sarebbe necessario però che dopo ogni alimentazione si abbia la possibilità di lavarsi i denti. Certo. Ovvio, capisco che in vacanza è difficile. Allora, a quel punto esistono anche altri espedienti per fare in modo tale di allontanare il cibo dalla superficie dei denti, per esempio masticare una gomma da masticare, che sia senza zucchero piuttosto che sia ricca di calcio, dà certamente la possibilità meccanicamente di poter rimuovere quanto sulla superficie dei denti si è depositato con il cibo. E i bimbi ovviamente capiamo che sono un po' più soggetti a questo tipo di problematiche. Evidentemente. Se si rompe la... Allora, cioè, qualche giorno fa una mia amica, dottor Esposito, si è arrabbiata con suo figlio perché hanno rotto l'apparecchio ai denti proprio da poco e non poteva appunto ripristinarlo immediatamente proprio per la disponibilità del medico che glielo aveva, diciamo, confezionato. Se i bambini, se l'apparecchio si rompe e stanno una settimana, 10 giorni senza portarlo, succede qualcosa di molto grave? No, in genere questi apparecchietti che si rompono possono essere apparecchietti rimovibili, quindi in quel caso una volta rotto lo si conserva, certo, quelli permanenti. Certo, quelli permanenti è più difficile che si rompano, può rompersi, può venire via un attacco, una stellina, quello che viene detto brackets tecnicamente, della superficie del dente, in quel caso lo si conserva, ma in buona sostanza per tempi così brevi non accade granché, perché sono terapie che ovviamente hanno una programmazione nel tempo e quindi una settimana e 10 giorni senza l'apparecchietto non può provocare grossi danni. Però certo, non c'è dubbio, se sia la possibilità di farsi vedere un dentista è certamente meglio, perché certamente ogni caso ovviamente è a sé stante. Gianni da Milano ci aiuta a chiudere la nostra trasmissione, fortunatissimo, una dentatura veramente da fare invidia a noi tutti. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie Gianni. Io io ascoltando le vicissitudini degli ascoltatori così devo ritenermi veramente fortunato. Io ho 42 anni, ho una saturazione fa da 3 anni fa e ringrazio il cielo di non avere altri problemi. Certo. Volevo però porre una domandina. Certo. Io da bambino mi ricordo che alla scuola materna, alla scuola elementare, assumevo le pastiglie al fluoro. Sì, quella lì rosa, no? Sì, infatti. Esattamente. È possibile che abbia una dentatura come questa anche in seguito a questo tipo di, diciamo, di medicinale che ci davano? Gianni, credo di averle preso. Credo di averle prese anche io, sono un po' più grande di lei e pur non mangiando dolci particolarmente dannosi per la mia bocca, sono abbastanza attenta a tutto questo. Ho qualche problema in più, l'ho avuto, curato naturalmente del nostro ascoltatore. Dottor Esposito, queste pastigliette di fosforo le prendono ancora i bambini? Come no, facevamo da fluoro, non del fosforo. Ah, sì. Sono pastigliette di fluoro. Di fluoro, sì, va bene. Il fluoro è un elemento. No, beh, non vorrei dare false indicazioni. Non ha fatto bene, sai com'è. Allora, il fluoro è assolutamente un elemento fondamentale. Noi dentisti consigliamo che venga assunto fin dalla tenera età, addirittura anche le mamme durante lo stato di gravidanza possono assumerlo in accordo col ginecologo. O i pediatri lo consigliano anche loro. Il fluoro va assunto con pastiglie, gocce, gomme da masticare, ci sono varie tipologie di assunzione e va assunto ovviamente, come dicevo, in tenera età, fino all'età di 10-12 anni. Ma la dentatura perfetta del nostro ascoltatore può essere riconducibile a questo trattamento fatto in gioventù, secondo lei, o è fortunato, una buona igiene orale? Sicuramente ha avuto una perfetta igiene orale, ha avuto anche una predisposizione familiare tale per cui i denti non fossero affollati, piuttosto che fossero assolutamente tutti sani. Sono tanti elementi che permettono che la mia dentatura sia sempre ottima e bella forte, però non c'è dubbio che anche fare in modo tale che i controlli che sicuramente il signor Gianni avrà fatto gli hanno permesso di conservarla sana. Dottor Esposito, grazie molte per il suo aiuto di questa mattina. Magari prima di partire andiamo a farci un controllino, va, già che ci siamo, ci ha fatto venire anche un po' questo pensiero adesso, questo stimolo. La ringrazio molto e le auguro buone vacanze. Esatto. Grazie. A presto, grazie a Laura Vanossi per la collaborazione un po' faticosa questa mattina in trasmissione, Peter Bescapen assistenza tecnica. Noi ci risentiamo stasera alle 17 a Focus Economia e torniamo domani con Cuore Denari. Buona giornata. Cuore e Denari.